cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. Non piace la pasta fatta in casa con gli ingredienti della tradizione alimentare italiana? Allora, perché questa mattina partiamo con le tagliatelle di nonna Pina, perché potevamo farci mancare in questa estate 2017 il caso alimentare a turbare i sonni degli italiani. Il nuovo incubo si chiama Fipronil, è un insetticida ammesso nel trattamento degli animali domestici, ma non di quelli destinati ad entrare a far parte della filiera alimentare, perché incompatibile con la salute umana. Eppure tracce di Fipronil sono state trovate appunto in uova prodotte in alcuni paesi del nord Europa, Olanda e Belgio, e diffuse poi all'intero continente, e di conseguenza se ne è cominciato a parlare da qualche giorno anche in Italia. Il Ministero della Salute ha cominciato a effettuare e attraverso i nuclei antisofisticazioni, le ASL, controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale, e da qualche giorno a questa parte si trova costretto a fornire dati sui controlli effettuati, che non sono del tutto positivi in merito proprio alla presenza di Fipronil in uova, ovoprodotti e alimenti che li contengono. Cosa sappiamo fino ad ora? Che tra pasta artigianale, omelette surgelate, qualche uovo al Fipronil potrebbe essere già finito sulle tavole dei consumatori italiani. Allora, rassicuriamo subito i consumatori: controlli per scoprire le uova contaminate prima che finiscano sui banchi della vendita procedono di gran lena, e però, come dicevamo appunto, si continuano a trovare alcuni casi positivi. Ci sono stati dei ritrovamenti in allevamenti in alcune circostanze dell'Emilia Romagna, in provincia di Macerata, in provincia di Viterbo. Comunque i controlli sono stati avviati dopo l'allarme e i sequestri in alcuni paesi europei all'inizio di agosto. Allora, abbiamo deciso di parlare di tutto questo argomento perché intanto naturalmente la situazione è molto sotto controllo, ma per lunedì prossimo al Ministero della Salute è stato convocato un tavolo interministeriale tra politiche agricole, le sviluppo economico, associazioni di categoria sul problema appunto di queste uova contaminate da questo insetticida. E in questa riunione si dovrà discutere della fattibilità di una certificazione Fipronil free sulle confezioni delle uova per dare garanzie ai consumatori. Allora, intanto io vi convoco 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Siete dei grandi consumatori di uova per le creme, il gelato, la pasta fatta in casa, la frittata, colazione, pranzo, cena, quali comprate? Come avete percepito questa notizia di questi giorni? Perché anche questo è naturalmente un tema importante. Vi ha condizionati un po' naturalmente questa notizia nelle vostre scelte di consumo di questi giorni? Credo che non sia successo granché in realtà tra i banchi del supermercato appunto nell'acquisto di questi prodotti. Detto questo, le organizzazioni di categoria monitorano attentamente per rassicurare la comunità e la collettività dei consumatori. Comunque, come vi tenete informati su questo tema, quello complessivo, quello della sicurezza alimentare? Perché poi nel nostro paese negli ultimi anni si è parlato anche in altri casi di scandali di carattere alimentare, dalla mucca pazza all'influenza aviaria, le mozzarelle blu, il batterio killer, con le ultime anche lasagne con carne di cavallo, di cui forse abbiamo parlato anche con Nicoletta Carbone a Cuore e Denari. E allora io vi ho ribadito il numero verde, potete anche scriverci al 349-238-6666 per fare chiarezza su quello che sta accadendo in queste settimane nel nostro paese, ma in tutta Europa. Intanto segnalo subito il primo ascoltatore di stamattina che scrive: basta allevamenti intensivi, perché sicuramente il tema è anche questo. Buongiorno e grazie ad Oreste Massimino, che è presidente della sezione avicola di Confagricoltura. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno anche a Gianluca Bagnara, presidente invece di Assoavi, l'associazione che tutela la produzione e promuove il consumo di uova italiane, quindi insomma grandi protagonisti della battaglia di questi giorni. Bagnara, buongiorno presidente. Buongiorno a tutti voi, grazie. E grazie anche a Dario Dongo, avvocato, giornalista, uno dei nostri amici, amico di Cuore e Denari, un grande esperto di diritto alimentare internazionale. Tra tutte le cose che fa, di recente ha fondato anche GRIT, che è un progetto progetto Great Italian Food Trade, un grande appassionato di Made in Italy, agroalimentare italiano, ma soprattutto un esperto di leggi che tutelano il settore. Avvocato Dongo, buongiorno anche a lei. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Allora, volevo partire con Gianluca Bagnara, presidente di Assoavi, l'associazione appunto che ha lo scopo di tutelare e valorizzare la produzione e la commercializzazione dei prodotti del settore. Rappresentate oggi, presidente, ci dia un po' una fotografia della vostra organizzazione. 400 associati e quanti milioni di galline e di conseguenza di uova? Il 65% delle galline italiane sono, per così dire, associate a noi attraverso i produttori, gli allevatori. In Italia abbiamo una produzione che oscilla dai 42-44 milioni di galline, quindi, e noi rappresentiamo i due terzi di questa produzione. E quindi è un settore molto importante, molto organizzato, anche perché troviamo le uova, oltre il consumo diretto, poi sono un prodotto chiave di tanti prodotti italiani, del Made in Italy. E circa il 45% del nostro consumo di uova è indiretto, perché lo troviamo nei dolci, nella pasta, e quindi è la base della nostra alimentazione. Che consumo italiano pro capite c'è di uova, presidente? Complessivamente siamo agli apici in Europa, assieme agli inglesi, al nord Europa, siamo sui 12-13 kg all'anno, anche se poi invece il consumo italiano non è basato sull'uovo diretto, ma per, come dicevo appunto un poco fa, per circa la metà, quasi la metà, indiretto attraverso gli elaborati. E questo è il punto per cui ci interessa il fipronil, no, presidente? Sì. Perché l'Italia è più che autosufficiente per il proprio fabbisogno di uova con questa percentuale. Esatto, noi produciamo un 105% del nostro fabbisogno, quindi esportiamo un po' di ovo prodotti anche fuori dall'Europa. Però ecco, possiamo dire che è una filiera italiana che produce per il consumatore italiano. Allora, come state vivendo questo, lo possiamo considerare un piccolo allarme sul fipronil, presidente? Voi lo percepite come tale, come organizzazione di categoria? Ma io spero sia veramente un piccolo allarme che ci obbliga tutti quanti, noi, le autorità, a rivedere un attimo il sistema di controlli e anche a perfezionarlo. Dobbiamo dire che, come è scattato questo allarme nel nord Europa, dove purtroppo hanno ritardato ad eseguire i controlli, qui invece in tempi reali ci siamo attivati. Fortunatamente anche i laboratori, perché i laboratori di analisi non erano attrezzati per controllare questo, perché non ci deve essere questo principio attivo nella catena alimentare, e in tempi reali, nonostante il ferragosto, alcuni laboratori sono già attrezzati, quindi possiamo iniziare anche a fare analisi, perché un mese fa non era possibile. E la prima cosa, visto che abbiamo già un sistema di tracciabilità nelle uova dato dai regolamenti comunitari, per cui ogni uovo è marchiato con dei codici complessi, se vogliamo, ma che permettono di rintracciare l'uovo dallo scaffale del supermercato, quindi dalla tavola del consumatore, indietro, arrivare al singolo allevamento. E la nostra strategia è quella di dire: ok, facciamo punto zero, abbiamo un processo di autocontrollo dove controlliamo ogni capannone, non parlo di allevamento, perché un allevamento può essere articolato anche in più siti, in più capannoni. Ogni capannone deve essere controllato a campione, a tappeto, quindi non a campione, a tappeto, e poi un controllato dall'istituzione, dalle ASL, dalla sanità, in modo che ci sia una verifica anche istituzionale. In questo modo vogliamo isolare eventuali casi di abuso di questo principio, che ripeto, non è. È inserito casualmente nella catena alimentare, perché può darsi che sia stato utilizzato per sanificare gli allevamenti. In Nord Europa è utilizzato contro gli acri e i pidocchi degli animali. Quindi, è un insetticida per l'appunto, no? Il tema è che naturalmente non si dovrebbe trovare in questi prodotti, comunque non è dannoso, l'abbiamo detto, per la salute umana, a meno che uno non se ne mangi a cucchiaiate, ma dubito che sarebbe assurdo. È un prodotto con cui conviviamo, perché lo utilizziamo nei nostri animali domestici, il cane, il gatto, nei collari dei nostri animali, oppure lo diamo direttamente proprio per tenere i nostri animali sani, puliti, da eventuali insetti che potrebbero danneggiare. Quindi insomma la tracciabilità sull'alimento è già molto importante da parte delle in Italia si può fare naturalmente molto di più, e voi ci ha detto Presidente appunto se sarà necessario batteremo, controlleremo capannone per capannone in tutta Italia. No, ma questo è il nostro principio che applichiamo proprio come sistema di autocontrollo con un protocollo di controllo ben preciso. Dove abbiamo l'impegno verso l'autorità, ieri proprio ieri abbiamo avuto un incontro in Regione Emilia Romagna, Assessorato Sanità e Agricoltura assieme, ci siamo impegnati anche a comunicare chi non intende sottoporsi a questo autocontrollo. Ah, perché c'è qualcuno che fa anche un po' lo schizzinoso? Eventualmente stanno chiesto, ma se qualcuno non è disponibile, lo comunichiamo, dobbiamo essere più trasparenti possibile, perché il nostro obiettivo non è tutelare qualcuno che magari per superficialità o per furbizia particolare si è comportato in modo non appropriato. Il nostro obiettivo è tutelare il settore, che è una cosa molto più importante del singolo. E tutelare però anche i consumatori, perché già ci scrivono, c'è chi ci sta chiamando all'800 24 00 24. Si è parlato molto di Marche, me ne dispiace, in questi giorni, perché io vengo da quella regione, perché tra Ancona e Macerata in qualche stabilimento prodotti con tracce di fipronil sono stati trovati, e Marco proprio dalle Marche ci scrive: chi mi tutela dalle uova usate per esempio per fare i biscotti industriali? Allora Dario Dongo, lei, dopo che l'ho chiamata ieri pomeriggio, visto che ha subito, anzi lo aveva già fatto, poi ha arricchito ulteriormente il suo sito con altri commenti su questa vicenda. Allora, siamo assolutamente sicuri sulla validità dei controlli nelle nostre filiere alimentari, sono in assoluto le più garantite a livello internazionale, questo lo sappiamo, appunto lo diciamo spesso. Detto questo, ogni tanto qualche eccezione c'è, qualche piccolo caso deve essere commentato e segnalato. Allora, dal punto di vista legale, che cosa è mancato nella catena dei controlli nella situazione specifica appunto delle uova al fipronil? Ma in questo caso vi è un vero e proprio scandalo che non riguarda l'Italia, ma riguarda altri paesi membri, particolarmente l'Olanda e il Belgio, le cui autorità avevano esatta notizia del rischio concreto di contaminazione delle uova da fipronil fin dal novembre del 2016, e hanno tardato 8 mesi, 9 mesi prima di condividere questa informazione, come invece doveroso e urgente secondo le regole europee, con altri paesi membri, a maggior ragione in quanto le uova olandesi sono circolate quasi in tutta Europa, per fortuna ben poco in Italia, poiché noi, come il presidente di Assoavi ha sottolineato, siamo più che autosufficienti. Quindi cosa è mancato? È mancato il coordinamento da parte della Commissione europea, delle autorità degli Stati membri che devono presiedere e gestire il rischio di sicurezza alimentare. Questo è il punto. Certo, detto questo, appunto, una volta che la situazione poi si segnala, si deve affrontare la circostanza quando le uova si sono già rotte, mi pare che poi stamattina, eccola, il detto calza anche, però può sicuramente così essere un nuovo caso che può suggerire alle istituzioni competenti, nel caso se ne dovesse verificare un altro in futuro, che ci deve essere appunto tempestiva comunicazione, si deve ragionare un po' più di concerto, modalità di ragionamento che ancora a livello europeo non sempre sono abituati a fare, avvocato Dongo, questo mi pare evidente, non solo per quello che riguarda il comparto alimentare, ma anche su in tanti altri ambiti. Purtroppo così. Come io ho più volte rimarcato, abbiamo anche un serio problema politico legato al fatto che l'attuale commissario per la salute e la sicurezza alimentare, l'ex ministro della salute lituano Vytenis Andriukaitis, è assente, poiché avendo ricevuto il Bruxelles notifica ufficiale del caso fipronil da parte del Belgio e dell'Olanda il 20 di luglio, quest'uomo ha fissato la prima riunione il 26 settembre, oltre 2 mesi dopo, mentre i consumatori europei hanno evidentemente nel frattanto anche espresso reazioni verso e preoccupazioni verso una situazione dai confini incerti, rispetto alla quale le prime garanzie sul non preoccupatevi sono provenute dall'autorità tedesca, certo, per la valutazione del detto rischio, questo, avvocato Dongo, non è detto che poi un paese che si ritiene danneggiato, anche magari, che ne so, in termini di danno reputazionale, non possa sollecitare invece incontri che si muovano un po' prima. Noi qua in Italia abbiamo già un tavolo, quello che si svolgerà lunedì prossimo al Ministero della Salute. Oreste Massimino, presidente della sezione avicola di Confagricoltura, lei ci sarà? Penso di sì. Ecco, che cosa andrete a dire? Cosa vi aspettate di sentire in questo tavolo? Che tipo di azione avete in mente di condurre e di portare avanti per gestire questa piccola emergenza di quest'estate 2017 dal punto di vista alimentare? Poi andremo al tema della certificazione del Fipronil Free, perché anche lì è un tema su cui non tutti sono d'accordo. Massimino. La cosa più importante sarà quella di fare chiarezza come si è arrivato al fipronil in Italia, perché è una novità quella di questo antiparassitario. Chiarire, noi abbiamo piena fiducia sia nei NAS sia negli zooprofilati che fanno le indagini. Bisogna che sia chiarito bene se questo prodotto è stato utilizzato per disinfezione degli ambienti e che poi sia arrivato nelle lettiere e abbia contaminato le uova, oppure se sia stato usato nei mangimi. Bisogna chiarire molto, molto bene questo, perché è importante sapere come si è arrivato a questa contaminazione. Il problema degli acari è un problema importante, non vorrei che qualcuno avesse esagerato non riuscendo a tamponarli, che sia arrivato a queste... Ha fatto fare il bagno di fipronil agli acari, insomma, ecco, esagerando. Quindi è un prodotto che non è autorizzato nella catena alimentare e quindi tolleranza zero non va utilizzato. Certo. Noi sosterremo questa cosa, noi dobbiamo avere un prodotto, i prodotti che arrivano dai nostri allevamenti devono essere certificati e devono essere garantiti. E plaudo all'azione di Assoavi, in particolare di Bagnara, che saluto perché ci conosciamo molto bene, della loro autocertificazione, del piano che hanno messo in azione per appunto garantire il prodotto che arriva dagli allevamenti italiani. Adesso sentiremo cosa ne pensano gli ascoltatori. Sono pronti Valerio da Bologna, Stefano da Pordenone, ma li sento subito dopo il nostro break pubblicitario. Tra poco. Ma cos'è quest'estate? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Io sono una grande appassionata di uova, ne mangio così, proprio semplicemente, contenuto proteico assolutamente eccezionale per le nostre esigenze nutrizionali, e poi tutto quello che viene fatto con le uova, dalla pasta fresca, le creme, il gelato, insomma siamo dei grandi consumatori in Italia, ma soprattutto siamo anche più che autosufficienti per il nostro fabbisogno. Ecco perché ci secca un po' anche tutta questa polemica attorno al fipronil e ai prodotti derivati, alle uova contaminate da fipronil e ai prodotti derivati che sono stati sequestrati anche nel nostro paese, tra la Campania, l'Emilia Romagna, le Marche, la Calabria e non solo, insomma un po' macchia d'olio ci sono delle situazioni, ma il Ministero della Salute vigila attentamente attraverso l'attività dei carabinieri, dei nuclei antisofisticazione e poi anche attraverso le ASL, che comunque continuano ad imbattersi in qualche allevamento di galline o centri di imballaggio, laboratori o supermercati che hanno uova che hanno tracce di questo insetticida. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande da segnare, da girare ai nostri ospiti di questa mattina, che sono Oreste Massimino, presidente della sezione avicola di Confagricoltura, Gianluca Bagnara, presidente di Assoavi, l'associazione che tutela la produzione e promuove il consumo di uova italiane, l'avvocato Dario Dongo, esperto in diritto alimentare internazionale. Avevamo promesso a due ascoltatori di intervenire, ma ne ho veramente tanti, vi siete scatenati stamattina, ci fa piacere. Valerio da Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Posso parlare? Certo. Beh, niente. Io non mi occupo di uova e non mi occupo di antiparassitari, però sono un largo fruitore di giornali, di radio e di televisione. Quindi la chiarezza mi sembra importante nell'informazione, prima di tutto. Da ciò che io ho capito è, prima cosa, questa partita di prodotti olandesi e belgi è stata analizzata e io ho sentito in alcune trasmissioni che se un consumatore potesse, cioè, potenzialmente avere dei danni dal consumo di queste uova contaminate, ne avrebbe dovute mangiare almeno 7 al giorno. Eh sì, l'abbiamo detto all'inizio, Valerio. Perché ciò fosse appunto significativo. L'altra cosa che ho capito che immediatamente dopo sugli organi di informazione è scattato il meccanismo. Le uova olandesi e belghe sono contaminate, questo è stato il concetto che è passato, quindi andate nel supermercato, cercate lì sull'uovo, perché le uova italiane sono a posto. Poi adesso sento il presidente Bagnara che dice no, vabbè, il free for all non c'era perché non lo cercavamo. Quindi adesso punto zero, andiamo a vedere se anche noi ce l'abbiamo. Cioè, ho capito questo, quindi alla fine il concetto è qualcosa è passato, ma mi è sembrata molto di più una guerra commerciale che un reale allarme sanitario. Grazie Valerio, mi ha sostituito molto bene questa mattina, insomma, nel girare al presidente Bagnara, una bella provocazione interessante, presidente. Un'analisi molto seria sì. E concreta. Un consumatore che... molto attento e consapevole che si prova ad informare, anche nella filiera dell'informazione, nella filiera, nel circuito che si crea sempre anche nella diffusione delle informazioni. Sì. Presidente Bagnara. No, un'analisi molto precisa e corretta. Non si cercava il fipronil perché, essendo vietato, si dà per scontato che non ci deve essere. Quindi questa è la base. Nel momento in cui è scattato questo allarme in Europa, abbiamo detto andiamo a vedere, a verificare anche in casa nostra se è tutto a posto, motivo per cui abbiamo detto partiamo con un autocontrollo a tappeto su tutti i nostri allevamenti per poter distinguere eventuali flussi di prodotto, eventuali uova che siano arrivate attraverso qualche canale commerciale da fuori, quindi dall'Olanda o dalla Francia, rispetto a quelle prodotte in Italia, che vogliamo distinguere la filiera italiana dal resto. Tant'è vero che abbiamo iniziato tre anni fa, a dire il vero, ad avviare un disciplinare di SQN, Sistema Qualità Nazionale, attraverso il nostro Ministero dell'Agricoltura, e finalmente quest'anno abbiamo ottenuto l'ok da Bruxelles, perché vogliamo caratterizzare un disciplinare di qualità italiano. Ecco, e quindi di conseguenza non vogliamo che questo sia compromesso da eventuali dubbi o incroci con flussi di prodotto che arrivano dall'estero. Come incrocerebbe la sua strada questo disciplinare, presidente Bagnara, con l'eventuale certificazione fipronil free? Lei è d'accordo con questa piega che sta prendendo il dibattito, questa certificazione da presentare eventualmente a questo tavolo europeo tra un mese, quando a Bruxelles si riunirà la Commissione europea? Fipronil free deve essere comunque a prescindere, non può essere soltanto un'operazione di marketing. In questo momento può servire questo come slogan per assicurare il consumatore che abbiamo una produzione italiana libera da questa, ed è il motivo per cui il nostro compito come associazione è quello di costruire le condizioni, quindi il disciplinare, il metodo di lavoro, i controlli, gli autocontrolli eccetera eccetera, e la stretta collaborazione poi con le istituzioni, gli organi sanitari, ASL in primis e poi NAS e così via, in modo da condividere le informazioni e mettere a disposizione le informazioni che noi abbiamo. Poi dopo naturalmente ogni azienda o organizzazione o catena di supermercati è libera poi, giustamente fa marketing, quindi può utilizzare queste informazioni, queste garanzie che noi diamo per rassicurare il consumatore e fare il proprio marketing, perché è vero, cioè ci sono delle guerre commerciali impressionanti, incredibili, e ognuno in queste condizioni cerca di fare del meglio per poter far vedere, certo, e dare migliori garanzie. Avvocato Dongo, non è compito nostro fare marketing, nostro è costruire le condizioni perché ci sia il valore per chi deve fare marketing successivamente. Avvocato Dongo, so che a lei l'idea del bollino fipronil free sulle uova proprio non piace, perché? Ma non piace perché noi abbiamo un sistema di eccellenza di cui il presidente di Assoavi Bagnara si dà notizia e conferma, che non ha bisogno di affermare, a seconda degli scandali che si verificano in altre parti d'Europa, che oggi le uova sono fipronil free. Anni fa, nel 2011-2012, avremmo dovuto scrivere allora dioxin free, poiché in Germania vennero chiusi 4.700 allevamenti avicoli e suini per inquinamento e contaminazione da diossine dei mangimi e degli animali. Allora, lei dice come se dicesse comunque le segnalo da quelle che teoricamente il fipronil dentro ce l'hanno. Cioè, deve essere scontato che non ci sia, appunto, come diceva Bagnara all'inizio. Perché sicurezza alimentare è un prerequisito che deve toccare tutti gli alimenti immessi nel mercato interno, senza eccezioni. Quindi se un alimento non è conforme alle regole di sicurezza alimentare deve venire rimosso dal mercato, questo come regola generale. Vogliamo valorizzare l'uovo italiano? Dobbiamo, perché le nostre uova, possiamo dire, sono le migliori e sono le più sicure, non solo in Italia e in Europa, ma anche nel mondo. E allora come lo facciamo? Lo facciamo evidenziando, uno, che si tratta di uovo italiano, due, con lo sviluppo di un sistema di qualità nazionale. Vogliamo introdurre degli ulteriori vanti? Lo possiamo fare con la filiera del biologico, laddove vi è una assenza di qualsiasi residuo di cosiddetti pesticidi o fitofarmaci, che dir si voglia. Lo possiamo fare, come si sta iniziando a fare, con le uova anche da galline allevate senza antibiotici, nei limiti delle tecnici, della fattibilità e della possibilità di sviluppare questa filiera. Lo si può e lo si deve fare, come io da anni sostengo, per i prodotti trasformati, affermando l'obbligo in Italia e in Europa della sede dello stabilimento di produzione, così che i consumatori in Italia, in Europa e nel mondo possano distinguere l'alimento che è realizzato in Italia e quindi evidentemente con uova italiane, in quanto migliore, non soltanto più sicuro. Questo è, a mio avviso, l'approccio punto da seguire. E poi soprattutto trasparenza. Come ha detto all'inizio il presidente Magnara, evviva la trasparenza. La trasparenza deve essere tale in Italia, deve essere tale in Europa. Quindi fuori i nomi e sul banco degli imputati si sappia quali imprese e quali marchi vanno a collocarsi. Questo vale soprattutto, appunto, in Europa, in questo scandalo che evidentemente, come altri, tocca anche nomi grossi sia nella produzione di uova sia nella loro lavorazione. Grazie avvocato Dongo. Presidente Massimino, Confagricoltura cosa ne pensa della piega del dibattito preso sulla certificazione Fipronil Free nei termini appunto che ne hanno dato i relatori che l'hanno preceduta? Poi continuerei anche con gli ascoltatori, perché vedo che c'è anche da parte loro un bel dibattito, molta richiesta di informazioni. C'è, adesso vorrei sentire tra un secondo, Carmelo da Bergamo, che chiede delucidazioni in più rispetto già alle indicazioni che sono fornite su ogni singolo guscio d'uovo che noi compriamo, per cui lui dice, insomma, su queste uova qualche informazione c'è, che cosa ci dicono allora questi codicini stampati sul guscio delle uova che compriamo tutti i giorni. Intanto Massimino, Fipronil Free sì o Fipronil Free no? Lei per che tipo di orientamento è? Io sono perfettamente d'accordo con l'avvocato Dongo, perché oggi ci sarà il Fipronil Free, l'uovo Fipronil Free. Domani ci sarà un altro prodotto che dovrà essere eliminato. Le uova devono essere sane, e se un prodotto non deve entrare nella catena alimentare, noi non lo dobbiamo utilizzare. Ribadisco quello che ho detto prima, va fatta chiarezza su come si è arrivati a questo scandalo, perché per conto mio è un vero e proprio scandalo che ci è arrivato dall'estero. Non vorrei che qualcuno ne ha approfittato anche qui in Italia, pensando che usare questo prodotto non so che beneficio se ne potesse avere. Le uova devono essere libere da tutti i prodotti che non sono utilizzati. Noi dobbiamo. Chi poteva pensare di andare a cercare il Fipronil? Certo. Al massimo si potevano pensare a cercare degli antibiotici, a cercare altri prodotti che sono di comune uso negli allevamenti avicoli, magari usati e che potrebbero essere usati illegalmente. Ma il Fipronil, che è un antiparassitario che si usa per cani e gatti, non lo so, è uno non avrei mai andare immaginato a cercare, che potrebbe essere utilizzato nelle uova, anche se qualche ascoltatore presidente invece suggerisce proprio di porre il dibattito in termini contrari rispetto a come lo stiamo mettendo noi, e dicono sono proprio i prodotti vietati che vanno cercati con dei blitz, certo, non so che cosa, però il tema è che tu lo vai a cercare nel momento in cui hai motivo per farlo. Non è che una mattina ti alzi, hai una lista di prodotti vietati e dici adesso vado a controllare tutti i produttori di uova, vado a vedere tutto quello che c'è, che posso trovare, tanto per metterli in difficoltà. Non so se... Che dice? No, È chiaro che tutti i prodotti vietati vanno cercati, ma io, per quel che so io, un laboratorio per cercare qualcosa deve avere un'indicazione, certo, motivo. Deve sapere quello che deve cercare, perché non posso io portare delle uova e dire cerca tutto quello che non va. Quindi dobbiamo sensibilizzare soprattutto gli allevatori, ma gli allevatori italiani penso che non abbiano, certo, bisogno, e a Soavi lo ha dimostrato. Perché è un problema non solo di igiene pubblica, ma anche proprio di marketing. Noi e abbiamo di reputazione, la fama di essere, certo, buoni allevatori, e quindi questo deve essere il nostro, diciamo così, attu che abbiamo nei confronti dell'estero, dove, lo dico senza mezzi termini, non si lavora bene come in Italia. E quindi noi dobbiamo promuovere il prodotto italiano, garantire il prodotto italiano, tutelare il prodotto italiano. Carmelo da Bergamo, allora, che cosa non capisce dell'etichettatura, chiamiamola un po' così, delle uova? Sì, buongiorno, grazie per la possibilità. No, volevo intervenire sul discorso appunto dei vari codici, ma si sono aperti altri discorsi, però finiamo con quello che era il mio principio, cioè nell'uovo ci sono tante sigle, tante cose, ok, validissimo, uno non è esperto, se le va a cercare, se ha la volontà e tutto, però è anche vero che secondo me, se non ho letto male in tutte le uova che ho consumato, manca nell'uovo specifico la data di scadenza. Cioè la scadenza c'è nella confezione, ma nel momento in cui io tolgo le uova per mia comodità dalla confezione, le vado a mettere nel frigo, tanto è vero che nei frigoriferi ci sono i contenitori, diciamo, per le uova. Non vabbè, c'è più, però la Carmelo, anche lei adesso non è che si può lamentare per il fatto che la scadenza è scritta nella scatola e non è scritta nelle uova, siccome lei per comodità la scatola la butta via, si lamenta che lì. Siamo anche un po' maturi nel nostro comportamento. Detto questo, cosa ci dice Bagnara nel il guscio dell'uovo nel codicino stampato, perché ne hanno stampati, no? È vero che non c'è esattamente la data di scadenza ultima per ogni singolo uovo, e questa indicazione è solo nella scatola, adesso io non me lo ricordo, è solo nella scatola esterna? Allora, il codice... Oppure ci sono uova e uova, perché forse qualcuno in realtà la scadenza finale ce l'ha, mi sbaglio? Allora, la scadenza finale è nella scatola, ma è molto più breve rispetto a quella legale, perché la scadenza naturale sarebbe circa 28 giorni. In realtà poi la commercializzazione e i tempi del mercato sono molto più brevi, tant'è vero che si vanno 15 o addirittura le cosiddette uova freschissime entro la settimana. E a regolare questo poi è il rapporto di mercato. Le uova, nel momento in cui sono vendute come freschissime, per esempio, come fresche, alla scaduto il termine vengono ritirate. Il supermercato obbliga il produttore a ritirare il prodotto. Quindi questo è il rapporto commerciale che va oltre i limiti di legge, no? i tempi normali che può avere un uovo. Il codice ci dice tutta la storia e l'origine del prodotto, il paese, il tipo, l'allevamento, il centro d'imballo e la tipologia di allevamento, quindi galline bio, zero, piuttosto che a terra, piuttosto che in voliera o delle gabbie arricchite, ora sono gabbie molto complesse, non più quelle che c'erano fino al 2012. Quindi questo ci dice tutta la storia dell'uovo, e dall'altra parte tecnicamente questo ci permette di dire se c'è qualcosa che non va nell'allevamento, no? Ecco, il meccanismo di autocontrollo, siamo in grado di rintracciare e ritirare in tempi velocissimi il prodotto dal singolo scaffale. È avvenuto anche in anni passati, quando ci sono stati casi di salmonelle, di problemi, immediatamente scatta l'allerta sanitaria e viene ritirato e bloccato il prodotto, perché il codice ci permette di rintracciare tutto questo. Chiarissimo. Quindi diciamo i codici hanno anche questa finalità, ovviamente, sì, non solo per dare informazioni al consumatore, ma anche per voi, nei casi estremi, naturalmente, per andare a recuperare tutto quello che c'è in circolazione. Il codice stampigliato nell'uovo è molto complesso, perché deve concentrare tutta questa informazione, e dall'altra parte l'uovo non è un libro per cui si possa scrivere di tutto, quindi va tutto sintetizzato. La confezione invece permette anche di gestire informazioni più utili al consumatore nel gestire il prodotto, nei comportamenti, perché crea il rapporto fra azienda e consumatore finale, di dire guarda, questo uovo è fresco, freschissimo, lo devi consigliare, è consigliato per questo tipo di consumo piuttosto che un altro e così via, e quindi questo è un rapporto più informativo e generale. Stiamo andando verso la chiusura, ci metto dentro due ascoltatori, poi un messaggio finale da parte dei nostri tre interlocutori, appunto per rassicurare la comunità dei consumatori. Io mi sento tranquilla, vi devo dire la verità, mi ha relativamente toccato questo dibattito. Certo, forse infastidisce di più proprio la modalità con cui l'informazione viene fatta circolare, ma noi non siamo tutti quanti esperti appunto di questi argomenti, per cui qualche volta è evidente che la superficialità ha la meglio. Detto questo, comunque dall'Europa molto bene non si sono comportati, perché certamente qualche segnale potevano farlo presente un po' prima. Stefano da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Se ce la fa veloce, grazie. Sì, niente, volevo dare il mio piccolo pensiero. Io sono, diciamo, abbastanza fortunato perché ho le uova, diciamo così, naturali, nel senso che sì. I miei genitori hanno la possibilità, Stefano, di avere. Anch'io le porto dalla campagna, se posso, possibilmente. Sì. Chiaramente sono fortunato a metà, perché sappiamo benissimo che comunque tra biscotti o altri prodotti le uova, diciamo, a livello industriale ci sono all'interno. Tracce quindi... di guscio d'uova veramente sono indicate in tantissimi prodotti, infatti, se andiamo a vedere le etichette, è vero. Infatti, però quello che mi stupisce un po' è che noi qui in Italia abbiamo riscontrato questo problema, questo scandalo, ma l'Olanda o il Belgio o il paese di turno non ha rilevato niente nel frattempo, prima che arrivassimo noi a scoprire questa cosa. No, è da lì che sono partite. No, avvocato Dongo, la filiera dell'informazione è stata questa, perché da su sono partiti le... La notizia, lo scandalo è partito proprio dall'Olanda, dal Belgio. Questi hanno tenuto la notizia segreta per 7-8 mesi, dopodiché ad un certo punto si sono decisi, dopo che queste uova al Fiproni le erano finite in tutta Europa, ma addirittura fino ad Hong Kong, allora è venuta fuori la notizia. Quindi non è che, Stefano, l'abbiamo scoperto noi e adesso stiamo denunciando tutti quanti, no, poi alla fine si sono decisi a farlo sapere e tutti i paesi stanno facendo i controlli del caso. Però a questo punto un altro ascoltatore si chiede, e allora, gli vogliamo battere la bacchettina sulle mani a questi signori qua o no? Le sanzioni come funzionano? Salvatore, mi pare che fosse questo il tema del suo quesito, ma deve essere telegrafico. Dottoressa, complimenti per il dibattito che ha instaurato. Dicevo, sì, le sanzioni devono essere fortissime, perché è uno scandalo enorme, altro che, come dice l'ascoltatore che mi aveva preceduto, condividendo tutto quello che hanno detto dal punto di vista tecnico. Io mi ricordo, non so di quale governo, forse Berlusconi, non ne faccio un indirizzo politico personale, però dico che un ministro, mi pare si chiamasse Bondi, è stato costretto a dimettersi per quattro pietre cadute a Pompei. Il ministro che ci aveva detto che era tutto sicuro 15 giorni fa, l'ho sentito io personalmente in televisione, della sanità, che ci ha detto no, niente, per l'Italia non c'è niente, altra bacchettata per questi paesi. Allora, detto questo, Salvatore, se fossimo stati noi. Chiudo con il diretto interessato, con Bagnara di Assoavi. Allora, effettivamente è andata un po' così, no? Si parte così quasi per tutti i casi. All'inizio si tende molto a ridimensionare, ovviamente non si vuole creare allarme fino a quando non si sono fatte tutte le verifiche, mi pare anche un atteggiamento responsabile nei confronti di un paese che si governa. Dopodiché, nel momento in cui i problemi si cominciano a fare, però giorno per giorno devo dire che il Ministero della Salute pubblica il suo bollettino di guerra e racconta ogni giorno, no, Presidente Bagnara, quanti stabilimenti sono stati visitati, che controlli sono stati fatti, quanti NAS ci sono in giro. Un minuto prima di salutarla. Brevemente, intanto concordo con l'avvocato Dongo il fatto che del comportamento non corretto dei paesi nord europei, però su questo vi dobbiamo dire che c'è una grossa differenza nel rapporto pubblico-privato. Nord Europa il controllo sanitario è spesso lasciato a società private che controllano gli allevamenti, poi il livello pubblico è molto, molto più leggero rispetto al nostro. Noi abbiamo una intensità di veterinari per allevamento che ha un rapporto 1-10 rispetto alla Francia, tanto per far capire anche la capillarità dei controlli che abbiamo sugli allevamenti e la frequenza che abbiamo. Detto questo, nel momento in cui è arrivata questa notizia dal nord Europa, qui sono scattati in 24 ore i meccanismi di controllo e poi di accreditamento dei laboratori per fare le verifiche. Molti di quel bollettino di guerra, che detto di guerra, che pubblica il Ministero sono poi accertamenti, sono blocchi di produzioni che viene bloccate in attesa di verifiche, non si tratta ancora di prodotto contaminato. Quindi certo, vengono rilevate questo. Delle tracce e in via precauzionale certi stabilimenti vengono tutto qua. E quindi in attesa poi di avere i risultati finali da parte dei laboratori accreditati, non quelli semplicemente perché sono sul mercato e possono fare e tutti possono fare questa analisi. Chiarissimo. Presidente Bagnara, ci faccia sapere se ha bisogno di dare altre informazioni in futuro ai nostri ascoltatori, saremo disponibili per voi. Grazie a Bagnara, presidente di Assoavi, Dario Dongo, Oreste Massimino, ci fermiamo, c'è il giornale radio, torno subito dopo con il commercio online, perché adesso parte anche la vendita di prodotti agroalimentari alla grande attraverso questa modalità. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin! Nel banco freezer! Ma cos'è quest'estate? Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Chi ne ha tanti compra tutto quello che può, naturalmente soddisfa quanto più possibile tutte le proprie esigenze di consumo e poco di risparmio. Allora, da qualche anno assistiamo, e anzi ne siamo testimoni e protagonisti allo stesso tempo, ad un importante cambio di scenario nell'intero settore del commercio, uno spostamento imponente delle vendite dai negozi fisici verso l'e-commerce, cioè le compravendite online, su internet, sul web. È una circostanza che sappiamo bene perché ne abbiamo parlato tante volte, porta alla chiusura di negozi che sono già messi alla dura prova dalla creazione nelle grandi città, soprattutto dei megapoli commerciali, ma anche di gloriose catene. Pensate che cosa succede nel mondo dei libri, oggi si legge tutto sul digitale, si riducono sempre di più i lettori del cartaceo, di conseguenza anche ovviamente i punti di riferimento dei libri fisici, ma insomma dai libri potremmo parlare di ogni categoria merceologica. Leggevo un pezzo di un collega che diceva: i negozi fisici sono diventati per il commercio come le macchine da scrivere per la scrittura, una vecchia tecnologia condannata all'estinzione da un successore più efficace e efficiente. Per tutti quei consumatori che sanno quello che vogliono e sono disposti ad aspettare, l'opzione di acquisto online, l'opzione dell'acquisto online diventa l'unica soluzione possibile, sicuramente, non sappiamo se possibile, sicuramente la più economica e comoda per la generazione nata e cresciuta con internet. Non ha molto senso il concetto di andare a fare shopping, ma in qualche modo, grazie alle continue e miratissime, anche questo è un punto importante, sollecitazioni da parte degli store online come Amazon, è lo shopping che va verso di loro. Ora, questa grande rivoluzione sta facendo un altro passaggio che possiamo definire epocale senza timore di esagerare nell'utilizzo dei termini. Si sta trasferendo al settore alimentare, come ci racconta l'ultima incredibile alleanza che è stata annunciata al mercato proprio pochi giorni fa. Walmart, che è un grande gruppo della grande distribuzione americana del grande consumo, si allea con Google per contendere ad Amazon lo scettro dello shopping online. Il colosso americano, appunto, del commercio ha annunciato che entro la fine di settembre i propri clienti potranno fare ordini addirittura semplicemente a voce attraverso la piattaforma del motore di ricerca. I clienti di Walmart potranno comprare quindi centinaia di migliaia di prodotti attraverso Google Express e dall'inizio dell'anno prossimo l'assortimento sarà ancora più ricco e comprenderà anche generi alimentari. Ma verso che mondo stiamo andando? Io vi chiedo, vi piace questo mondo? Io so bene, perché ne abbiamo parlato tante volte, che siete tutti quanti, lo siamo un po' tutti, dei grandi fruitori del commercio online. Io per il settore alimentare penso che morirò al supermercato, non ci penso per niente. C'è però chi per ragioni di comodità, magari per beni particolarmente pesanti, non disdegna affatto di farsi mandare tutto a casa. Un conto è però lo store online della grande insegna, della grande distribuzione. Un conto è il fresco, perché in realtà è verso questo tipo di rivoluzione che si sta andando. Ma chissà che cosa ne pensano gli esperti, i grandi osservatori di tutto questo, ma anche direttamente gli esponenti del mondo del commercio, che in realtà vivono non troppo bene tutti questi cambiamenti. Allora stamattina intavoliamo questa conversazione su questo argomento, ovviamente anche in questo caso se volete con il vostro contributo all'800 24 00 24, oppure se volete al 349 238 6666, e vedo già che lampeggiano su WhatsApp alcune prime indicazioni da parte vostra su questo argomento. Allora vi presento gli ospiti con cui chiacchiererò questa mattina: professor Francesco Sacco, docente di strategia aziendale all'Università Bocconi. Non mi ricordo più, Sacco, se lei è ancora componente del tavolo permanente per l'innovazione del governo italiano. No, niente. Non è... con il governo Renzi. Ecco, guardi, avevo trovato anche questa indicazione, poi ieri in realtà ci siamo anche sentiti, mi sono dimenticato di chiedergli, mi sembrava poco carino se non l'avessi detto, qualora lo fosse ancora, non lo è più. Però insomma è un grande esperto di questi argomenti e adesso ci racconterà anche questa importante operazione annunciata negli Stati Uniti. Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti, buongiorno presidente segretario. Buongiorno a voi. E buongiorno a Roberto Liscia, presidente invece di Netcom, anche in questo caso un grande amico dei nostri programmi, è il Consorzio del Commercio Elettronico. Buongiorno Liscia e grazie di essere con noi. Anche lui è un grande l'uomo di questo argomento. Insomma, ci facciamo sempre spiegare da Roberto Liscia quali sono anche le tutele per i consumatori che praticano sempre di più la rete per portare a casa l'acquisto che desiderano. Liscia, benvenuta. Grazie. Grazie a voi. Allora, Sacco, professor Sacco, voglio che spieghi subito ai nostri ascoltatori, visto che noi Google lo conosciamo perché è tutti i giorni il motore di ricerca più popolare che esista, non conosciamo Walmart perché qua in Italia non ce l'abbiamo, ma ci spiega esattamente in che cosa consiste questa grande operazione che è stata annunciata, che al momento sarà limitata al mercato americano, ma magari poi più avanti qualcuno si inventerà anche di farne un modello europeo e chissà anche all'italiana. Insomma, cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Beh, come lei ha detto già in premessa, l'accordo ha come obiettivo quello di vendere tramite il Google Home tutto quello che oggi fa parte dell'offerta di Walmart. Walmart è la più grande azienda al mondo per fatturato ed è il più grande datore di lavoro privato al mondo, quindi non stiamo parlando di una piccola azienda e non stiamo parlando neanche di un'azienda che ha investito poco nell'e-commerce, perché è un'azienda che ha appena chiuso una partita di acquisizioni spendendo diversi miliardi di dollari. Solo Jet, che ha comprato di recente, vale più di 3 miliardi. E che quindi già ecco, i consumatori tantissimi. Americani, se si iscrivono al sito di Walmart, possono comprare tutti gli articoli che vogliono attraverso il sito diretto, come già succede anche da noi per tantissime aziende. E questo è un punto. Quindi cosa cambia con questa intesa con il motore di ricerca? La cosa che sicuramente questo accordo dice a tutti quanti in tutto il mondo che i cosiddetti smart speaker, di cui Google Home è non il principale, il contender vero nel mercato, sono un qualche cosa che saranno appannaggio di poche aziende che su questo mercato andranno a investire. Ricordiamo che il più grosso, diciamo il più diffuso smart speaker al mondo è Amazon Alexa nelle varie versioni Echo, Echo Look, eccetera, eccetera. E che Amazon, che è il leader dell'e-commerce, sta in qualche modo cambiando proprio la genetica del commercio al dettaglio. Con l'acquisizione di Whole Foods in realtà sta dando una nuova linfa, sta dando una nuova importanza alla presenza fisica dei negozi, ma allo stesso tempo sta fissando un nuovo livello per chi deve vendere al consumo. Adesso è una vendita più semplice, non è più una vendita che è fatta in un modo complesso, in un browser o anche in un'app, ma qualche cosa deve essere, come dire, un accompagnamento quotidiano rispetto a quelli che sono i bisogni. Poi, affiancato a questi, ci sono tanti altri servizi. No, il tema carino anche è che addirittura si ipotizza la possibilità di fare acquisti con queste nuove tecnologie, quindi con i dispositivi vocali, attraverso appunto proprio la piattaforma che Google ha per poter fare questo. E poi c'è tutto il tema, Sacco, dell'andare però a soddisfare le esigenze dei consumatori nel settore dell'alimentare, addirittura del fresco, perché questa intesa mi pare di capire che voglia arrivare lì, no? Per svilupparsi in un territorio laddove ancora possibilità di sviluppo sono particolarmente complicati proprio per la natura del prodotto che si vuole veicolare. Che cosa hanno in mente? Allora, guardiamo solo il mercato americano. Nel mercato americano Walmart ha il 56% delle vendite nella parte alimentare. Nella parte online le vendite della parte alimentare nell'online pesano pochissimo, neanche il 10%. Amazon ha capito che ormai è leader nella parte dell'e-commerce per quanto riguarda tutta l'elettronica e si sta sviluppando verso il fisico, naturalmente che verso l'alimentare. Queste due parti andranno in parte a sovrapporsi. Walmart in questo tentativo innanzitutto vuol far leva anche sui suoi negozi fisici. Negli Stati Uniti c'è una statistica che dice che mediamente ogni americano è a 15 km di distanza da un negozio Walmart. Quindi c'è una grandissima presenza fisica, ma questa è anche la premessa per un altro passaggio che si sta già preparando, che è, come dire, un passo più in là, ma altrettanto importante. Quello dei droni che portano la spesa a casa? No, non voleva raccontarci. I droni che portano... No, ma anche quella della realtà aumentata e della realtà aumentata e la realtà immersiva, perché la frontiera dell'e-commerce, soprattutto di un certo tipo di e-commerce di fascia alta e soprattutto quello elettronico, sarà in quella direzione. Certo, ma rimaniamo al momento già quello che sta arrivando, Sacco, che ci basta già perché lo capiamo solo al 10%. Quindi io le chiedo, allora, Walmart già li vende i prodotti agroalimentari, può continuare a sviluppare la sua piattaforma di e-commerce per in qualche maniera continuare ad implementare le esigenze dei suoi consumatori. Che cosa dà in più l'intesa con Google? È questo che non riesco a capire. Allora, Google ha innanzitutto un'azienda tecnologica che ha investito tantissimo nell'intelligenza artificiale. Oggi Google ha all'incirca il 18% di questo mercato americano che si è sviluppato in modo un po' inaspettato degli smart speaker. Quindi ha già una presenza ben consolidata, ma poi è una società che è probabilmente la migliore al mondo nel riuscire dai dati a estrapolare dei servizi che possono essere utilizzati per vendere altre cose. Faccio un esempio, man mano che, e questo fa parte dell'accordo che hanno fatto Walmart e Amazon, e che hanno fatto Walmart e Google. Google e Walmart da una parte, Amazon e Whole Foods dall'altra. Ok, abbiamo chiarito le due cordate. Sacco. Mi perdoni. No, ma ci mancherebbe altro. Allora, man mano che l'accordo andrà avanti, Google avrà accesso a tutti i dati di acquisto di coloro che comprano utilizzando Google Home su Walmart. Man mano che questo avverrà, l'assistente imparerà quali sono, diciamo, i marchi, quali sono le confezioni, quali sono le tipologie, diventerà sempre più semplice comprare. Chiaro. Tutta questa operazione ha bisogno di tantissima intelligenza proprio per rendere le cose semplici alla portata di chiunque. E un gesto intuitivo come ordiniamo la carta igienica oppure riordiniamo il latte oppure compriamo lo yogurt hanno bisogno dietro di... Arriveremo anche, Sacco, secondo me, nel momento in cui sono assolutamente in grado, perché lo fanno, di tracciare tutte le nostre abitudini di consumo, arriveranno ad anticiparci la nostra esigenza di carta igienica o di sottilette o di prosciutto cotto, appunto, ancora prima che noi lo chiediamo. Comunque, guardi, adesso la interrompo solo perché vorrei dare la parola per un attimo anche agli altri ascoltatori. Povero Sacco, l'ho interrogato io, di solito è abituato a fare lui, l'ho spremuto ben bene, però volevamo veramente capire un po' la natura e la portata di questa grande operazione che, appunto, per adesso se ne parla negli Stati Uniti, ma comunque stiamo parlando di una rivoluzione che riguarda anche noi. Intanto ci sono degli ascoltatori che mi stanno mandando il sito di Esselunga a casa, ma guardi, io lo so benissimo che ci sono le insegne della grande distribuzione che fanno fare la spesa a casa e ce la consegnano direttamente. Quello di cui parliamo stamattina è un'altra cosa, un'evoluzione ulteriore. E altri ascoltatori che dicono che bello, le nostre città saranno lande desolate di saracinesche chiuse. Chi è che vuole un mondo così? Fabrizio da Sanremo: non ho mai comprato online, preferisco il contatto fisico soprattutto per i libri. Un altro ascoltatore: oggi ho comprato online un oggetto a 18 euro in un negozio locale, me ne avevano chiesti 43. Allora, Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti, andiamo al commercio italiano che già da molti anni, insomma, subisce le batoste di questa rivoluzione, la guarda evidentemente con grande perplessità, a prescindere dal fatto che ovviamente molti grandi marchi i loro store online ce l'hanno e quindi stanno chiudendo negozi per precisa scelta. Da che cosa vuole cominciare per commentare il tema, guardi, che abbiamo scelto stamattina? Anzitutto non bisogna guardare con preoccupazione, nel senso che comunque è un'evoluzione. In Italia le vendite online hanno ancora una quota di mercato che è relativamente bassa, però i cambiamenti in atto sono fortissimi. Noi proprio questa mattina usciamo con uno studio: 10 anni dalla grande crisi, sono spariti 100.000 esercizi, sono stati sostituiti più che altro da pubblici esercizi, attività di ristorazione, bar e quant'altro, e ci sono tendenze in atto nelle abitudini dei consumatori, crollano alcuni beni status symbol tipo l'abbigliamento ed altro, vengono sostituiti da altri, la crisi ha portato comunque i consumatori ad essere più attenti, c'è un mondo che sta cambiando. Noi siamo convinti che l'online sempre di più dovrà sposarsi col fisico, è quello che di fatto poi dopo stanno facendo attraverso questi grandi accordi. Noi stessi abbiamo instaurato dei rapporti di collaborazione con Amazon per la consegna della merce e quant'altro. Noi riteniamo, fatto proprio attraverso gli esercizi specializzati, noi riteniamo che il futuro sia proprio quello, l'ibridazione fra fisico e online. Grandi specialisti che sono in grado comunque di consigliare i consumatori, sono in grado di dare delle indicazioni, sono in grado, certo, di parlare, di consigliare il consumatore. Basta andare sul sito di Amazon Go per vedere il modello di esercizio negli Stati Uniti che è stato aperto, dove comunque il consumatore entra con uno smartphone, acquista la merce, non c'è cassiere, non c'è servizio al banco e quant'altro, e comunque c'è una modernizzazione anche da questo punto di vista. Quindi insomma lei dice l'evoluzione c'è, è in atto, è ineluttabile, o la cavalchiamo come opportunità. È molto importante, è vero che le etichette parlano, è vero che tutto comunque è possibile trovarlo, però anche andare a cercare prodotti migliori su internet non è semplice. Allora ci possono essere dei consulenti per quanto riguarda lo shopper che sono proprio rappresentati all'interno degli esercizi tradizionali, che si curano della consegna della merce, si curano delle eventuali riparazioni, si curano dei pagamenti, si curano comunque di garantire, e c'è un problema comunque anche di garanzia per quanto riguarda il consumatore. C'è un problema di natura economica che è molto importante. La rete commerciale italiana è stata per decenni considerata come la rete commerciale migliore per la diversificazione, per la diversità, per la qualità comunque della vendita che veniva fatta. Questi elementi sono elementi importanti che vanno mantenuti, permettono alle città di viverle meglio. Quindi il problema è quello di far sì che comunque ci sia un rapporto con il consumatore, anche dal punto di vista fisico, che garantisca comunque la qualità della merce, garantisca il prezzo, garantisca anche un sistema sociale imperniato comunque sulla vendita di prodotti e servizi, che è fondamentale comunque per la qualità. Esatto, lì c'è un altro dibattito in corso. Ma c'è anche un altro aspetto molto importante: queste grandi .com comunque trasferiscono potere economico dal nostro paese altrove, cioè una parte comunque del reddito che è prodotto oggi dalla rete tradizionale nostra si trasferisce altrove, quindi c'è un problema comunque di equilibrare, di garantire comunque diversificazione dal punto di vista dell'offerta, quindi è una rivoluzione. I regolatori diciamo che ne sono molto consci di tutto questo, ma ancora non hanno ben capito come gestire. C'è un problema anche di regolare la rete, non sto qui a dire tutte le cose comunque delle quali anche voi avete parlato e quant'altro. Pensiamo però ad un fatto: un tempo c'erano i negozi di dischi, sono completamente spariti. È ovvio, basti pensare alla vicenda di Kodak, no? Poi tra l'altro. Esatto, tutto passa attraverso la rete. È probabile che tante cose, la modernizzazione, la tecnologia, specialmente i giovani che comunque hanno abitudini diverse, quindi ci dobbiamo orientare tutti ad avere un modello diverso, cercando di mantenere, di valorizzare quello di buono che abbiamo fatto in tutti questi anni. Tra l'altro, Bussoni, la rete tradizionale è importantissima. Ecco, ma questo che io le chiedo, voglio arrivare a chiederle, ma per tutte le categorie merceologiche sarà possibile appunto utilizzare il canale online? Perché se noi vogliamo andare a parlare del tema agroalimentare, no? E lì il campo si fa un po' più complicato. Guardi, ma pensi solamente alle tante produzioni tipiche che ci sono, al fatto che comunque gli esercizi garantiscono comunque prodotti che molto sono trovabili su internet, però è anche vero, pensiamo al settore del turismo, che da questo punto di vista ha avuto un'evoluzione che senza internet non avrebbe potuto avere. Pensi agli affittacamere, ai B&B, Airbnb, stanno avendo un successo. L'uberizzazione mondiale in corso. Se non ci fosse stato internet, non avrebbero avuto quelle opportunità di sviluppo che hanno avuto oggi. Quindi anche qui si tratta di capire in che termini l'online, in che termini la modernizzazione, la digitalizzazione può essere utile per una rete che qualcuno considera obsoleta, vecchia, quale è quella commerciale italiana, ma che invece ha bisogno di trasformarsi, e dare quella capacità, quell'intelligenza, quella voglia di innovare che hanno sempre avuto i nostri imprenditori commerciali, mantenendo comunque una qualità della vita delle nostre città che è assolutamente fondamentale. Negli Stati Uniti gli esercizi a 15 chilometri è una follia, cioè pensiamo. Guardi, sa cosa dice Maurizio? Sa cosa dice l'ascoltatore? Il commercio online sarà pure la nuova Bibbia, ma vogliamo passeggiare in strade illuminate da negozi. Ecco. Allora, cerchiamo di farlo mettendo insieme questo. Guardi, noi abbiamo avviato un rapporto di collaborazione con Amazon. Io spero che possa andare avanti e che la nostra rete tradizionale possa rappresentare anche una parte dello sbocco dell'attività di Amazon, dando forza ai nostri imprenditori che mantengono comunque la propria autonomia. Il futuro è dato da specialisti, chi saprà comunque all'interno del proprio settore merceologico garantire qualità, capacità di presentazione della merce, attenzione alla clientela, avrà comunque sicuramente successo, curerà il cliente, sarà sempre più curato, la parte servizi diventerà molto più importante della parte di valore del bene, e questo potrebbe essere un futuro verso il quale noi stiamo cercando di orientare le nostre imprese. Allora, Roberto Liscia, le chiedo di fare questa cosa perché non voglio farla iniziare a parlare per poi interromperla. Metto dentro una domanda di un ascoltatore, dopodiché la faccio argomentare con tutte le considerazioni che le sono venute in mente sentendo i nostri ospiti precedenti. Soprattutto la domanda dalla quale partirò, Liscia, è questa: ma le piace passeggiare per i corsi appunto illuminati dai negozi nelle strade italiane, tutti belli, vivaci e animati anche da queste belle illuminazioni date anche dagli esercizi commerciali aperti? È chiaro che è una provocazione sterile, ma tanto per così sorridere un po' questa mattina. Allora ci metto per come primo contributo dei nostri ascoltatori quello di Alberto di Bologna. Alberto, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. Salve. Ma io ho diversi anni che lavoro nel settore e-commerce e volevo far notare una cosa in ambito alimentare, che sono delle tecnologie tipo blockchain che permettono di tracciare il prodotto, e guardiamo il caso adesso delle uova adulterate, dal produttore al consumatore. Questa garanzia non ce la danno per esempio i grandi distributori, neanche comunque un Amazon, perché comunque la logica comunitaria di conoscere chi mi vende il prodotto, conoscere chi mi produce, spesso viene in qualche modo dimenticata con queste grandi organizzazioni. Internet permette di costruire comunità, di disintermediare, perciò di avere un rapporto diretto col produttore e di tracciare eventualmente tutti i passaggi della filiera. Grazie Alberto. Vabbè, un primo commento a Liscia lo consento, ma deve durare un minuto, dopodiché tutti gli altri se li prende dopo. Roberto Liscia, presidente di Netcom. Sicuramente quello che sta avvenendo è un cambiamento di processo, un cambiamento tecnologico. Quindi quello che dice l'ascoltatore sulla blockchain è assolutamente corretto. Chi riuscirà a governare... Poi per chi non lo sa, il concetto del blockchain lo spieghiamo nella seconda parte degli ascoltatori della trasmissione, perché chiedo a voi di aiutarmi, perché io veramente neanche mi cimento nella dare la definizione di questo mondo. Diciamo che tutte le tecnologie che stanno entrando, diciamo la visione virtuale, le tecnologie di processo, le tecnologie di tracciamento, sono elementi che stanno cambiando in maniera profonda il rapporto tra l'acquirente e il prodotto acquistato. E siccome l'alimentare è il prodotto più complesso, è stato l'ultimo che è entrato nel cambiamento dell'e-commerce. E la rivoluzione che avverrà e sta avvenendo nell'alimentare sarà molto più violenta, che significa che le strade non saranno più illuminate, saranno più illuminate di prima, perché dovranno diventare dei centri in qualche misura di godimento e non semplicemente dei centri dove si stoccano merci per essere acquistate. Luoghi esperienziali li chiamano così, Alice. Si è spesso fermi lì, allora che ci andiamo insieme dopo in uno di questi luoghi, ma dopo aver sentito la pubblicità, la pausa, tra poco. Ma cos'è quest'estate? Forget about the prices, e mica ce li possiamo dimenticare invece i prezzi dei beni che compriamo. Sono molto chiari i commenti degli ascoltatori, gli appassionati in particolar modo di commercio online, che invece sul prezzo puntano. C'è un ascoltatore che ci scrive: ho comprato un medicinale da banco a 4,70 euro, l'avevo pagato 11 euro, sono stato truffato ieri o sono fortunato oggi? No, prezzo finale probabilmente sarà stato 11 euro, dovendo pagare tutta quanta la filiera che porta su quel banco quel prodotto. Naturalmente qualche passaggio della filiera attraverso internet viene risparmiato, e da lì si risale a risparmio. Un altro ascoltatore scrive: ma Roberto, stamattina ho ricomprato la testina di ricambio del mio rasoio elettrico, ci ho messo 5 minuti, se dovevo cercarlo per negozi ci avrei messo mezza giornata, però Roberto l'avrebbe portato a casa subito, si sarebbe fatto un bel giro magari con la sua compagna che sarebbe stata contenta, le avrebbe comprato qualcos'altro e il rasoio elettrico le deve arrivare a casa, non ce l'ha subito nell'immediatezza. Secondo me ci sono pro e contro di tutto quanto. Roberto, Liscia, Netcom. Allora andiamo un po' alla rivoluzione da cui siamo partiti, anche se qualcuno mi dice: ma siete indietro, ma parlate voi oggi di rivoluzione, ma la stiamo vivendo da anni. Ma lo so, quella che si è annunciata appunto negli Stati Uniti è un altro passo avanti, un altro step, per continuare a dirla all'inglese. Dove ci porterà tutto questo? Peraltro la domanda di e-commerce nel 2017 nel nostro paese sarà elevatissima. Voi avete un osservatorio molto recente, ma leggo di interessante che avete già previsto che sarà trainata dal proprio food and grocery, quindi proprio settore alimentare, oltre che arredamento e home living. Liscia. Ma le previsioni sono quelle che sta dicendo, cioè tutti gli osservatori concordano nel fatto che l'alimentare sarà il volume più importante nel mondo acquistato online, e fra l'altro chi guiderà questa trasformazione saranno i cinesi, che sono 400 milioni di acquirenti che compreranno prevalentemente online alimentare. Le cifre sono assolutamente strabilianti e peraltro rappresentano un'opportunità incredibile anche per l'export dell'alimentare italiano, che sappiamo essere di grandissima qualità. Quello che guida però questa trasformazione è il telefonino, lo smartphone, cioè questo potentissimo mezzo messo a disposizione di tutti noi ci sta in qualche misura abituando al fatto che noi possiamo ricercare un nuovo modo di rapportarci anche al cibo, perché quello che sta capitando è che questo potente mezzo ci sta mettendo in mano la possibilità di rispondere ai nostri comportamenti, che sono sempre più in qualche misura selettivi, risparmio di tempo per alcuni, ricerca di prodotti specifici per altri, ricerca di prodotti vegani per altri ancora, ricerca di prodotti che sono in qualche misura rispondenti alle allergie di molti consumatori, che sappiamo spesso sono difficili da gestire nell'acquisto dei prodotti, ma anche prodotti esperienziali, come dicevamo prima, la possibilità di avere a casa il cibo già tagliato e semplicemente da cucinare con la ricetta giusta. È vero, questa l'ho scoperta negli Stati Uniti quest'estate, qua ancora mi era mancata, probabilmente perché sono stata disattenta, assolutamente. Infatti, arriva la scatola a casa con tutto il dosaggio di tutti i prodotti per confezionare il pranzo finale, quindi non sarò più neanche in grado di fare pasticci in cucina, pensate, pure la Rosciani porterà a casa un piatto decente. Esattamente, stamattina in Inghilterra si è sviluppata moltissimo, in Francia sta cominciando, la possibilità di vivere esperienze, quindi andare a casa della signora Rossi dove c'è il figlio che suona il pianoforte ed avere un'esperienza conviviale, la possibilità di entrare in un negozio e sapere sul telefonino tutti gli ingredienti che compongono quel prodotto. Allora la rivoluzione parte dal consumatore e la grande battaglia è come riuscire a soddisfare questo consumatore. Quindi se torniamo alla domanda Google Walmart rispetto ad Amazon, è difficile dare una risposta oggi perché siamo all'inizio di una grande contesa, però evidentemente tutti questi elementi che i consumatori ricercano si collegano anche al tema del servizio, e il servizio vuol dire logistica. Non si è parlato del fatto che il grande scontro che c'è in questo momento tra questi due contendenti è chi sarà più bravo a gestire l'ultimo miglio, a gestire la consegna di tutte queste esperienze che il consumatore ricerca. Ora, Amazon, sotto il profilo della logistica, sappiamo che è sicuramente molto più avanti. Però diciamo che nelle grandi città, diciamo che forse non so se riuscirà a poter arrivare ovunque con la capillarità liscia, non so. Assolutamente, è più avanti però nei mezzi, negli strumenti, nei processi, nell'intelligenza artificiale. Walmart è più avanti nella regione dov'è sul tema della prossimità. E quindi il fatto che Google Express Shopping, che ha già sviluppato un po' di esperienze di prossimità negli Stati Uniti, dove è la stessa Google che sulla base delle ricerche del cliente va a prendere il prodotto nel negozio e te lo porta a casa, messo insieme a Walmart, che è in qualche misura filigranato o presente sulla popolazione, sicuramente potrà essere un aspetto interessante. Però il tema vero è che i processi oggi di logistica stanno evolvendo molto rapidamente e quindi ci sono dei processi che possono permettere di portare, come sappiamo, nelle grandi città in un'ora il prodotto a casa da parte di Guardi, Amazon. Queste sottolineature che lei sta facendo mi permettono di, adesso magari sento Bussoni se è d'accordo, di rispondere a tutti quegli ascoltatori, sono tanti, hanno probabilmente anche ragione, preoccupati del fatto della perdita di migliaia di posti di lavoro. Allora, non è che lavoriamo tutti nel commercio e facciamo tutti i commessi. Se si sviluppa la logistica per implementare queste attività che stanno partendo e che hanno sempre più successo, evidentemente i posti di lavoro si trasferiranno in altri campi. Si formeranno competenze diverse, professionalità diverse, non bisogna sempre aver paura della perdita del posto di lavoro fisico, come appunto dicevo prima, come se tutti facessimo i commessi di negozio. Bussoni, non so se è una, spero sì, che non sia una considerazione offensiva, no, ecco, per voi. Ma ci mancherebbe altro. Purtroppo posti di lavoro si perdono, ci sono pensiamo solamente al posto fisso, oggi diventa quasi quindi stanno cambiando 100.000 cose, ci si sta trasformando. Come io concordo con chi mi ha preceduto, la componente fondamentale sarà il servizio, quindi oggi chi gestisce in modo avveduto, intelligente, professionale, tecnologicamente avanzato un punto vendita fisico è in grado di ibridarsi con l'online e di garantire molto meglio di chiunque altro la soddisfazione del cliente. Quindi io credo che oggi i grandi competitor, da Amazon a Google, a chi ci sarà, avranno bisogno comunque di una rete fisica. Oggi la rete fisica, che è in grado di evolvere meglio, al minor costo, garantendo efficacia, efficienza e dando soddisfazione, è quella esistente. Quindi va fatto un processo di modernizzazione di quello che c'è. Probabilmente non rimarranno tutti, una parte è destinata comunque a uscire dal mercato. Però chi avrà le qualità, chi avrà la specializzazione, chi avrà la capacità comunque di saper coniugare questi due aspetti darà un futuro e manterremo comunque un presidio all'interno delle nostre città, certo, ma anche delle comunità minori, che è fondamentale. Quindi il fisico deve andare a braccetto con l'online. Non sparisce il fisico, ci saranno delle modificazioni in atto, ci saranno posti di lavoro che si trasformeranno, quindi chi opererà nel digitale, chi avrà competenze avrà più successo, chi rimane indietro rispetto a questo processo evolutivo probabilmente dovrà ricercare altra occupazione, però è un mondo che sta cambiando, è difficile oggi anche dire quanto perderemo o quanto acquisiremo. Se pensiamo ad Amazon Go, perderemmo tutti i cassieri, perderemmo tutti gli operatori degli scaffali, ma non sarà così. Probabilmente acquisteremo invece persone che faranno l'ordine per conto del cliente, gli consegneranno la merce a casa quando vorrà, gli faranno la riparazione. Ci saranno customer service che risponderanno al cliente insoddisfatto che ha qualcosa da dire. Perfetto, certo. O addirittura gli ricompreranno la merce usata, insomma, cambierà tantissimo, ci sarà un mondo nuovo. Come la vedo emancipata rispetto al vecchio commercio, non vecchio, nella modalità tradizionale come la conoscevamo, Bussoni. Mi piace questa sua serie di riflessioni fatte fino a questo momento. Adesso non che vogliamo cancellare tutto quello che abbiamo e tutto il mondo del commercio che c'è ancora tradizionale, vivo e vegeto e non gode purtroppo di ottimissima salute perché la crisi ancora morde, però insomma mi pare che la categoria sia assolutamente pronta ad ogni tipo di cambiamento. Però, in arrivo. Però io devo fare questa considerazione, è una categoria che ha beccato delle batoste incredibili. L'unico settore liberalizzato in Italia è stato questo, senza dare opportunità a questi imprenditori, a queste aziende familiari, di poter viaggiare in termini diversi rispetto a un futuro. Oggi quello che chiediamo è questo, diciamo, lasciamo perdere le sanzioni per quanto riguarda i POS, facciamo in modo di modernizzare veramente la rete e di creare un collegamento con l'online e con il fisico che garantisca comunque una vivibilità e una continuità per quanto riguarda capacità professionali, che sarebbe un peccato andare a disperdere. Allora, c'era Luigi da Bari che voleva intervenire con una riflessione sulla grande distribuzione, che non è il tema di oggi, perché Luigi l'abbiamo proprio superata, se non le dispiace la saluterei. L'ascoltatore di Hong Kong l'abbiamo perso, volevo mandarlo in onda, mannaggia, perché aveva una bella riflessione, ma soprattutto ci piaceva che arrivasse da tutt'altra parte del mondo. 30 secondi per Matteo da Chieti. Matteo, pronto? Matteo, velocissimo, sì. Grazie. Sì, pronto. Nulla, volevo dire che non sono d'accordo quando dite che non si perderanno posti di lavoro, perché si perderanno tantissimi posti di lavoro. Carta alla mano, si perderanno tantissimi. E non è vero che si trasferiranno. La maggior parte magari saranno trasferite all'estero come telefoniste, perché succede per esempio adesso per tutte le compagnie. Perderemo un sacco di posti di lavoro. Voglio dire, se compro il paio di scarpe online e poi mi licenziano mio figlio che lavora nel negozio di scarpe sotto casa mia, poi non posso piangere. Chi pagherà la mia pensione? Ma magari questa persona dovrà andare a gestire nei magazzini di queste società che distribuiscono questi prodotti l'invio di questi prodotti, appunto richieste dall'acquirente online, Matteo. Quindi non è detto che si distrugga, che tutti, ma sicuramente ci sarà qualche cambiamento. Probabilmente qualcuno verrà penalizzato, ma qualcuno verrà anche valorizzato in una professionalità diversa. Poi io non lo so, non sono la maga, non mi metto il turbante, e magari fra 5 anni sarò smentita in tutto quello che stiamo dicendo questa mattina. Detto ciò, siccome questo cambiamento sta avvenendo, a quanto pare nessuno è in grado di arrestarlo, è evidente che lo dobbiamo saper gestire con intelligenza. Siccome non vorrei che pensasse che mi sono dimenticata di lui, magari un minutino lo dedico anche a Francesco Sacco, che mi ha fatto partire molto bene la trasmissione stamattina. Cosa pensa comunque di chi si ostina ancora ad avere molta paura di questi cambiamenti, Sacco? Beh, che questi cambiamenti non possono essere arrestati. Se noi vediamo ad altri settori, poi prima si citava prima Uber. Uber ha dato la possibilità alle NCC, alle auto con conducente, che erano piccole aziende, di federarsi e diventare un qualche cosa che è diventato una realtà che si sta trasformando. Prima trasportavano solo persone, ora stanno trasportando il cibo a casa, poi fra poco faranno le consegne. Secondo me nel commercio, proprio nel commercio al dettaglio, soprattutto le piccole imprese, se partissero oggi in tempo, mettendosi insieme, potrebbero essere altrettanto che Walmart un partner con cui discutere, potrebbero essere una vera realtà. Per vendere un stesso prodotto competendo solo sul prezzo è un destino molto povero. Come diceva anche Roberto Liscia, dobbiamo creare servizio. Questo può essere un campanello d'allarme, l'accordo tra Walmart e Google, a dire il negozio fisico deve essere preservato, ma deve essere preservato partendo oggi con delle idee chiare, con delle iniziative coraggiose e con un po' di visione. Il mondo conservato così come lo conosciamo è difficile che potrà rimanere. Infatti, quindi mi spiace per gli ascoltatori che comunque sono particolarmente preoccupati per tutto questo, ma il tema è che dobbiamo gestirli questi cambiamenti, affrontarli, non subirli, e abbiamo gli strumenti, le capacità anche in Italia per poterlo fare in maniera intelligente. Intanto l'ultimo commento che voglio leggere solo che si riferisce alla testina di ricambio del rasoio dell'ascoltatore precedente, perché io ho detto vabbè, tu lo ordini oggi con l'online, magari ti arriva domani, non ti arriva subito. Se dovevo cercarlo per negozi ci avrei messo mezza giornata. Un ascoltatore da Bergamo dice: la questione del tempo che intercorre tra acquisto e consegna dell'online non ha più molto senso, perché nelle grandi città ordino la sera e ho consegna il mattino dopo. A Milano si consegna a 2 ore, però Andrea, non viviamo tutti quanti a Milano, abbiamo un territorio molto differenziato come lei sa, per cui ancora magari in certe città per chi acquista online La consegna non è immediata e magari l'acquisto al supermercato sotto casa è più veloce se vuoi quel bene, per cui non è una guerra, è solamente un confronto molto acceso fra due mondi che stanno coesistendo adesso, chissà chi l'avrà vinta. Grazie a Francesco Sacco, Mauro Bussoni, Roberto Liscia. Per l'ultima parte abbiamo scelto un tema carino, divertente, parleremo di viaggi, visto che oggi è venerdì, l'ultimo giorno della settimana, tra chi va e chi viene ancora c'è molto fermento in termini di vacanze, a tra poco. Ma cos'è quest'estate? Allora, è un argomento divertente, suggestivo, quello che abbiamo scelto per chiudere in bellezza la nostra settimana. Le vacanze stanno finendo per tanti, per molti cominciano, chissà quanti dovranno partire, magari da soli perché hanno dovuto lavorare mentre tutti gli amici e le amiche erano in vacanza, in ferie ci sono, queste altre persone ci sono potute andare prima. Allora, oggi la nostra attenzione è rivolta a tutte le donne in particolare che sono pronte a partire da sole. Allora, io ne ho fatti di viaggi da sola, sono ancora viva, sono felice di aver fatto queste esperienze. Quando l'ho comunicato effettivamente che avrei fatto così, molti sguardi di sbigottimento li ho ricevuti. Di sicuro hanno superato questi sguardi di perplessità quelli di approvazione che ho ricevuto, perché vabbè, a partire la mamma che ovviamente si preoccupa, però anche le amiche, gli amici, ma come, ma perché, ma non potevi andare con loro, ma perché ci vai adesso, ma aspetta, ma non potevi chiedere un altro momento di ferie e vacanze? No, ho fatto una scelta di voler andare da sola in quel posto. Dana Donato, buongiorno. Buongiorno. Probabilmente buongiorno, una sorte che tocca ancora anche a te qualche volta. Esattamente. Parto da sola per andare. Tutti. Esatto. Allora, viaggio da sola perché? Questa è la tua comunità di viaggiatrici, donne, ragazze che decidono di andare in ogni punto dell'emisfero, appunto, però in totale solitudine. Una piccola comunità che è nata ad agosto 2015 con un gruppo Facebook in cui discutevate proprio di queste scelte e poi insomma avete cominciato a condividere tutti i vostri viaggi in solitaria, no? L'esperienza che avevate vissuto. Adesso c'è però da questa comunità sta nascendo qualcosa di un po' più strutturato, no? Dana, raccontaci un po' qual è la tua storia e poi daremo anche qualche messaggio a tutte le donne che, come dire, quest'anno fanno questo colpo di genio, questo colpo di testa e prendono e partono da sole. Dana. Esatto, allora il progetto è nato con il gruppo Facebook in agosto 2015, come hai detto tu, e poi con la raccolta delle storie, perché noi sul nostro blog che è nato successivamente al gruppo raccogliamo tutte le storie delle donne che viaggiano da sole, che hanno il piacere di condividere la propria storia di come hanno iniziato e come vivono questi viaggi in solitaria. Al progetto collaborano oltre a me altre 15 donne tra redazione, moderazione del gruppo e traduzione. E ognuno di loro ha una storia diversa alle spalle, però condividiamo tutti quanti, certo, quanti la stessa passione. Tu continui a viaggiare da sola sempre o comunque qualche volta fai anche qualche viaggio in compagnia? Guarda, da quando ho iniziato 3 anni fa... Non vai più nessuno attorno a te. No, in realtà da quando ho iniziato 3 anni fa sì, ho praticamente viaggiato solo da sola da quel momento. E attualmente mi trovo in Canada da 2 mesi a Toronto, dove sono arrivata da sola. Ah, quindi non solo fai viaggi da sola, ma poi ti fermi anche a lungo nelle mete che scegli. Sì. Esatto, perché qui sto lavorando. Cosa fai di bello? Di bello lavoro in un ostello e mi occupo delle pulizie. Ecco. Questo ostello molto grande, è uno degli ostelli più importanti di Toronto. Hai capito? No, guarda, mi fa piacere che tu ci racconti questa esperienza. Lavoro in un ostello, mi occupo delle pulizie, perché qua già ci sarebbe stato qualcuno che dice, vabbè, si vede che ha un sacco di soldi per farsi tutte queste esperienze, gira figlia di papà che magari ha le spalle ben coperte per divertirsi in questi giri in solitaria. No, adesso Dana è in un ostello e fa le pulizie e si paga queste sue belle esperienze. Senti, qual è il viaggio in solitaria più originale che hai fatto? Allora, il primo che ho fatto, sono andata in Portogallo, ho lavorato in un ostello però in cambio di sistemazione, quindi io vivevo all'interno dell'ostello, mi davano una camera gratuitamente, però io 5 ore al giorno lavoravo. Ottimo. E lì mi occupavo sempre delle pulizie e poi del front desk, quindi accoglievo i clienti. È un tipo di viaggio che fanno moltissime, è un viaggio molto economico perché Ovviamente se lavori in cambio di sistemazione non hai uscite, magari non hai entrate perché non stai lavorando per essere pagata, però non hai neanche uscite, comunque ne hai pochissime. Mm-hmm. Tu però, Dana, tu di lavori in realtà teoricamente faresti dell'altro. Detto questo, poi quando vai nelle località che scegli dove fermarti a lungo, fai di necessità virtù e quello che c'è bisogno di fare fai, però in realtà il tuo lavoro è un altro, no? Sì, io, il mio lavoro è un altro, io sono una designer, una user experience designer, mi sono sempre occupata di web, è sempre stato il mio lavoro. Però volevo prendermi una pausa perché volevo fare un'esperienza all'estero fuori dall'Europa e volevo farla in un posto che mi permettesse, in cui potessi avere un visto e mi permettesse di lavorare, quindi di mantenermi. E in Nord America, perché è una cultura che sembra simile alla nostra, in realtà è molto diversa. Ed è molto interessante vedere cosa succede in una città nordamericana come Toronto, che è una città multiculturale. Bellissimo, è veramente un melting pot di persone completamente diverse, con background molto diversi fra di loro. Infatti, certo. I miei colleghi sono filippini, brasiliani, slovacchi, tedeschi, di tutto di più. Tra l'altro che nativi digitali, siete proprio figli del mondo. Poi tra l'altro veramente tu hai anche una trentina d'anni, no? Adesso io non è molto carino che però sono una donna, quindi io dico sempre la mia di età in diretta e potrei essere ben oltre la tua sorella maggiore, però comunque poi non sono solo esperienze che si possono fare a 20 anni, si può proseguire ovviamente perché crescere in termini di condivisione culturale ed intellettuale con gli altri paesi appunto non si finisce mai, lo si può fare fino ad 80 anni. No, prima ti avevo chiesto qual è stato il tuo viaggio, non il primo, quello del Portogallo, il più originale che hai fatto in solitaria. È quello. Quindi era questo. È stato il primo e anche il più originale, perché ne ho fatti altri di viaggi più brevi, di pochi giorni, sempre in solitaria, ma erano viaggi barra vacanze in realtà. Senti, la tua storia l'ha raccontata anche il nostro amico Federico Taddia, che lavora da noi e scrive anche per La Stampa, e nell'incipit del pezzo diceva: se un uomo dice che farà un viaggio da solo, il più delle volte suscita fascino e ammirazione, se invece a dirlo è una donna, è quasi sempre genera compatimento. Ecco quello che vogliamo fare, smentire e smontare questo stereotipo. In realtà questa frase gliel'hai detta tu, ma tu davvero hai la percezione ancora quando dici che partirai da sola di suscitare questo tipo di sentimento attorno a te? Sai, io sono un po' più grande di te, magari risulto essere un po' più la sfigata se parto da sola, no? Per te non dovrebbe essere così, eppure tu hai anche un po' la percezione di ricevere questo tipo di considerazione quando fai la grande comunicazione ferale della partenza? Ma io personalmente ormai non più, perché le persone che mi conoscono lo sanno, sanno quello che faccio e sanno che torno sempre contenta, bene o male. Ecco. Però da quello che vedo nel gruppo, dove siamo quasi 10.000 donne, tantissime ancora lo dicono, perché magari sono alla prima esperienza, anche se non hanno 18 anni, magari ne hanno 50, perché ci sono donne che vanno dai 18 ai 65 anni, e il gruppo più grande è quello tra i 25 e i 35 anni. Mm-hmm. Ci sono ancora tantissime donne che hanno questa percezione quando partono da sole, o questo compatimento, no? Ma vai da sola, come mai non hai trovato nessuno? Oppure un'infinita paura che possa capitare qualcosa, quando in realtà dobbiamo mettere la parola fine alla frase: una donna che viaggia da sola è pericoloso. Dana, te ne leggo un altro di messaggio, così magari questo lo poi ti prego riportalo su Facebook, te lo manda la Rosciani da Radio 24. Un ascoltatore scrive: che pena queste donne sole, appena avranno uno straccio d'uomo si attaccheranno come cozze e pretenderanno vacanze in hotel a 5 stelle. Ovvio, tu non vedi l'ora ovviamente di vedere, come dire, una evoluzione di questo tipo nella tua vita. Io non vedo l'ora di vedere un'evoluzione delle persone, perché a volte capita di ricevere, raramente è capitato di ricevere questi commenti sul blog, meno male. Però molto probabilmente questa persona non conosce nessuna donna che viaggia da sola, perché una donna che viaggia da sola non è una donna sola, non vuol dire che sia una donna single, che non ha trovato nessuno, che non accompagni. È una donna che ha scelto di partire in solitaria, di fare un'esperienza diversa rispetto alla partenza in gruppo, la partenza con un compagno o una compagna. Ce n'è un altro di ascoltatore che dice: le donne sono più preziose degli uomini, per questo una donna che viaggia da sola allarma. Comunque, ecco, in questo commento c'è anche un po' di, come dire, allarma, ma anche un po' di fascino lo creiamo quando decidiamo di fare queste cose, Dana. Che ne dici? Raccontaci un po' magari di qualcuno adesso, fra un minuto e mezzo chiudiamo, ma abbiamo ancora il tempo di raccontare un po' la tua comunità. 10.000 persone, ma dove? Su Facebook? Hai questi contatti? Su Facebook, sì. Il gruppo si chiama Viaggio alla Sala Perché, è iniziato 2 anni fa, siamo arrivati a 10.000 e io non me l'aspettavo per nulla. Bah, direi. Anche il sito è cresciuto molto, oltre alle storie raccontiamo altre cose, ci occupiamo di emotività, di organizzazione del viaggio. Suggerimenti anche pratici ed utili per chi vuole partire e magari raggiungere un posto dove non è mai stata, ma magari ce ne sono altre 10 che ci sono state e quindi subito parte la condivisione, un po' come ci scambiamo i vestiti e il rossetto, magari in questo caso si scambiano anche informazioni di viaggio, che mi sembra molto utile. Ci scambiamo consigli, racconti, ci si confronta, si fanno domande, si ricevono risposte, è una comunità, è quello che abbiamo voluto fare fin da subito, creare una rete fra le donne, certo, che viaggiano da sole, perché Dana, prima non esisteva. Sì, Dana, noi ti appoggiamo in pieno, naturalmente stai attenta quando viaggi, ma non c'è assolutamente bisogno di fare la raccomandazione della sorella maggiore, perché sono assolutamente certa che ormai con la tua esperienza giri assolutamente con la testa. Dopo il Canada andrai da qualche altra parte oppure ancora intenzione di fermarti lì a lungo? Io mi fermerò ancora per altri 3 mesi e mezzo e non poi ci penserai. Programma, e poi ci penserai. Grazie, sì. Dana, in bocca al lupo. Io viaggio da sola perché cercate questo account appunto su Facebook, ci sono belle 10.000 ragazze che hanno fatto tante belle esperienze. Noi ci fermiamo, finisce qui la prima settimana di Ma che cos'è quest'estate, gestione Rosciani. Spero vi siate divertiti, ma ci ritroviamo lunedì. Buon weekend a tutti.